Apoču. Vedrajke presto tornerò, o pelle dura non morirò. Compagni di viaggio senza futuro, noi dobbiamo sparare al nemico anche se non l'odio, la vita ci servirà per tornare a casa, invece si resta qua. Accendi il sole per me, all'orizzonte pensieri io volerò, è qui che la notte in silenzio è paura per noi, leggero il respiro guardando laggiù nel buio, e già da lontano si sente arrivare ormai di tutto e che non finisce mai. E cade tutto di noi, belve feroci e pochi eroi, negli occhi il mare e la città, ma chi di noi ritornerà? È finita, adesso vai avanti tu, e corre il soldato pensando ancora a lei, che lo aspetta a casa e dice ritorno.